si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buon sabato, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Se volete interagire in tempo reale con noi ci trovate su Twitter, @ si può fare 24, il nostro account, il mio, @ Ale Maurizi. E allora andiamo subito a dare la prima indicazione per quanto riguarda il nostro contest, diventa inviato di Si può fare, trovate tutte le informazioni sul sito di Radio 24, www.radio24.it. La parola chiave per cercare le buone notizie questa settimana è... Volontariato. Dovete cercare buone notizie nel mondo del volontariato questa settimana. Avete tempo fino a mercoledì per scriverci, si può fare @radio24.it o per contattarci anche sui social network come volete. Ripeto, trovate tutte le informazioni sul sito di Radio 24. Diventa inviato di Si può fare. Adesso andiamo ad iniziare. And now the good news. Cominciamo come ogni mattina con una buona notizia che riguarda il mondo del lavoro. L'intesa per quanto riguarda la Whirlpool di Cassinetta, in provincia di Biandronno, in provincia di Varese, è ormai stata raggiunta, nel senso che la Whirlpool ha raggiunto un accordo con i sindacati svedesi per dismettere in pratica uno stabilimento in Svezia entro quest'anno, e quindi questa intesa potenzierà le attività di Whirlpool in Italia, dove verranno concentrate nel polo di Biandronno, il polo di eccellenza per la produzione, l'attività di ricerca e sviluppo e la logistica destinate ai prodotti di incasso in Europa. Dunque si conferma l'impegno di Whirlpool in Italia. Questa per il mondo del lavoro è una buona notizia. Per un caso Micron ancora aperto, e ne parleremo dopo le 9, i 419 ingegneri fisici e progettisti in ballo con la multinazionale americana Micron, c'è un caso Whirlpool che invece si risolve positivamente. Ma andiamo a vedere di che cosa si occupano invece le prime pagine dei giornali di oggi. Dunque, c'è la notizia dell'intervento anticipato da parte della BCE, 1.000 miliardi per risollevare l'economia. Vediamo il titolo del Corriere, l'arma di Draghi, 1.000 miliardi, BCE verso l'acquisto di bond per rilanciare l'economia, anticipazione della stampa tedesca sul piano della banca centrale. Leggiamo, la stampa tedesca anticipa il piano della banca centrale europea per il rilancio dell'economia, 1.000 miliardi per l'acquisto di bond, cioè di titoli di Stato, che serviranno a sostenere lo sviluppo. Tanto è bastato perché lo spread tra rendimenti dei BTP decennali, titoli italiani e bond tedeschi di uguale durata si è sceso fino al record di 159 punti, tutte positive le borse europee. L'unico commento: speriamo che non, questi 1.000 miliardi non vadano ad alimentare strane bolle finanziarie come a volte è successo in passato, provocando poi peggioramento della crisi. Speriamo quindi che non vengano contraddette le intenzioni, che invece sono quelle di rilanciare l'economia e di uscire anche da questa situazione bassa inflazione, rischio di recessione, di avvitamento su questo. Vediamo come la stessa notizia viene trattata anche sul Sole 24 Ore. BCE piano da 1.000 miliardi, ai minimi storici il rendimento dei BTP decennali. La BCE ha già avviato le simulazioni, scrive il Sole, sul quantitative easing all'Europa. Secondo il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'ipotesi allo studio è quella di acquisti di titoli per circa 1.000 miliardi in un anno. L'obiettivo è quello di far risalire appunto l'inflazione rispetto al tasso dello 0,5% registrato a marzo nella zona euro. Continua intanto la corsa dei mercati, Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,8%. Già che ci siamo sul Sole, il dossier per quanto riguarda la casa, casa e rifiuti, sale il conto per le famiglie e le imprese, arrivano le modifiche della Camera al decreto su Tasi e Tari. Per la Tasi il nuovo tributo sui servizi indivisibili, cambiano gli adempimenti, ma la struttura resta sostanzialmente immutata nella versione uscita nella notte tra giovedì e venerdì dalle commissioni bilancio e finanze della Camera. La prospettiva rimane quella di nuovi incrementi per le seconde case, negozi e imprese, ma anche di una TASI superiore alla vecchia IMU per molte abitazioni principali di valore fiscale medio-basso. Questo sul Sole 24 Ore di oggi, dunque, il dossier per quanto riguarda la casa. Ma torniamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Intanto vi anticipo che ci sono c'è intervista al ministro del lavoro Poletti su Repubblica, un piano lavoro per 900.000 giovani, nuovi contratti, lo vedremo tra poco, e poi anche un'intervista al sottosegretario Del Rio sulla gli 80 euro in busta paga per 10 milioni di italiani, che conferma tutto, lo leggeremo più avanti. Però dicevamo, altre notizie sulle pagine dei quotidiani. Sul Corriere, l'uomo del caso Stamina smascherato dalla sua ex, con la denuncia di una ex fidanzata gli sono stati fatti togliere i fondi, sono retroscena che spuntano dalle carte dell'inchiesta. È stata una donna, l'ex fidanzata, a far togliere i fondi e a bloccare l'attività di Davide Vannoni, il guru delle staminali, e quindi a far sospendere l'applicazione del metodo Stamina. La storia, scrive il Corriere, è tutta nelle carte del processo per tentata truffa alla regione Piemonte, che comincerà il prossimo 22 di maggio. Altra notizia riguarda Gianna Nannini, sequestrata per evasione fiscale la villa di Gianna Nannini. Il PM di Milano dice sono stati sottratti al fisco 4 milioni di euro, e quindi la procura ha messo sotto sequestro la villa a Siena di Gianna Nannini, con la scuderia, i magazzini e l'autorimessa. Attraverso i soldi dell'evasione fiscale la cantante avrebbe acquistato anche un appartamento a Londra nel quartiere VIP di South Kensington. E questi sono appunto i dettagli sulla notizia che riguarda il sequestro da villa Gianna Nannini per presunta evasione. Ci fermiamo qua, facciamo una pausa per il traffico, poi la rassegna stampa europea, il giornale radio. Noi torniamo subito dopo, riprendiamo a dare un'occhiata ai giornali, poi le nostre buone notizie, gli approfondimenti, e apriremo anche il numero verde 800 24 00 24. A tra poco. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizio. Vi ricordo i nostri contatti se volete interagire in tempo reale con noi: chiocciola si può fare 24 l'account Twitter del programma, chiocciola Ale Maurizi il mio. E vi ricordo anche la parola chiave per partecipare al nostro contest, diventa inviato di Si può fare questa settimana. La buona notizia che dovete trovare è su... volontariato, volontariato, volontariato. Mi raccomando, trovate la buona notizia che riguarda il mondo del volontariato. Entro mercoledì avete tempo per scriverci alla mail si può fare @radio24.it. La più bella la manderemo in onda sabato prossimo. Oggi sentiremo la storia che abbiamo raccolto questa la settimana scorsa. Avevamo lanciato il tema, la parola chiave era lavoro. A proposito di lavoro, dunque avremo una buona notizia alle 9:15, alle 9:20, che riguarda il lavoro. Parleremo anche invece del caso Micron, i 419 tra ingegneri, fisici, progettisti che ieri hanno incontrato il governo per sapere che cosa si può fare per salvare questo pezzo di azienda italiana che la multinazionale americana sta mettendo in discussione perché vuole dismettere e quindi disfarsi di questi 400 lavoratori, che sono quasi tutti delle eccellenze. Anche perché l'azienda non è in crisi, sta andando piuttosto bene. Sentiamo che cosa ha detto ieri il governo a questi lavoratori della Micron tra poco. Adesso però invece riprendiamo a guardare, a dare uno sguardo alle pagine, alle prime pagine dei giornali di oggi. Avevamo annunciato un paio di interviste di alcuni ministri che anticipano i futuri provvedimenti del governo. C'è molta attesa, per esempio il ministro del lavoro Poletti parla di un piano lavoro per 900 200.000 giovani e nuovi contratti su Repubblica. Allora, leggiamo. Il 1° maggio, giorno della festa del lavoro, partirà il piano Garanzia Giovani, che offrirà a tutti i ragazzi tra i 15 e i 25 anni che hanno terminato la scuola o perso il lavoro una opportunità di formazione o di inserimento in un'azienda entro 4 mesi. L'annuncio arriva in un'intervista del ministro del lavoro Poletti su Repubblica, che dice: è una novità straordinaria nella storia d'Italia, non era mai successo che qualcuno si occupasse di un giovane appena uscito dalla scuola. Ma veniamo alle domande. Lei dice il governo è disposto a ridurre, a proposito dei rinnovi dei contratti a termine che ha fatto discutere in questi giorni, il governo è disposto a ridurre la durata dei contratti a termine senza causale da 36 a 24 mesi, come chiede una parte del Partito Democratico? No, dice Poletti, ipotizzare questo cambiamento non è possibile dal mio punto di vista. Quindi Poletti tira dritto. 3 anni per le aziende che assumono di tempo per rinnovare contratti a tempo determinato. Altra questione: le 8 proroghe per i contratti a termine sembrano effettivamente troppe, si potranno ridurre? Ci sono temi su cui si può ragionare, dice Poletti, il numero delle proroghe ha una sua logica, ma non è un dogma, dunque se ne può parlare. Dobbiamo scrivere una norma compatibile con le regole comunitarie senza contraddire il nostro intento di rendere più semplice l'accesso all'apprendistato. Ma gli imprenditori saranno ancora obbligati a stabilizzare una percentuale di apprendisti per poter poi assumere altre persone? Risponde Poletti. Questo l'Europa non ce lo chiede. E io continuo a pensare che non sono le norme che possono imporre i comportamenti positivi alle imprese. Dunque, 2 no alle richieste che arrivano dalla sinistra da parte del ministro Poletti. Sui 36 mesi, ma anche sulla una percentuale, diciamo, di contratti che devono essere stabilizzati. E poi la domanda: ma non è contraddittorio avere liberalizzato i contratti a termine con il decreto legge e poi puntare sul contratto a tutele crescenti nel Job Act? Alla fine il mercato del lavoro continua ad essere diviso in due. Risponde Poletti: il nostro obiettivo è semplificare le regole e questo si fa in entrambi i provvedimenti. Questo per quanto riguarda le dichiarazioni del ministro del lavoro, che appunto annuncia questo piano Garanzia Giovani, un piano di lavoro o di formazione per 900.000 giovani. Leggiamo un altro aspetto, un dettaglio, dice: un giovane interessato potrà iscriversi sul portale, verrà poi contattato dagli uffici degli enti locali o dalle agenzie per l'impiego, sarà fatto un suo profilo, gli verrà offerta una opportunità. È chiaro che dietro deve esserci tutto sistema imprenditoriale. Consideriamo la Garanzia Giovani il prototipo delle nostre politiche attive per il lavoro. A proposito di annunci, il sottosegretario Delrio sulla stampa questa volta torna sulla questione degli 80 euro in busta paga. Non daremo un euro in meno di quanto promesso. Domanda: vi siete presi 10 giorni prima di valutare il provvedimento sulle buste paga? Segno che fate fatica a trovare le coperture? No, è la più forte manovra di riduzione fiscale mai realizzata in Italia, dice Delrio, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Siete costretti a fare qualche limatura? No, non un euro in meno rispetto agli impegni assunti, rispetteremo quello che il Presidente del Consiglio ha promesso, ci saranno gli sconti per milioni di italiani, punto. La platea sarà di 10 milioni, ci saranno gli 80 euro per le fasce individuate, quelle che hanno 1.500 euro in busta paga, ovviamente con una distribuzione diversa per chi guadagna di più. Altra domanda sulle coperture: gran parte delle coperture verranno dalla spending review, vi preparate al più incisivo e doloroso taglio di spesa pubblica da molti anni a questa parte? Risponde Delrio: molte delle azioni previste non sono tagli, sono efficienze, non tagli lineari alla sanità o alla scuola, ma risparmieremo informatizzando o rendendo tutto più efficiente. Vuoi fare un esempio? Laddove la pubblica amministrazione paga a 200 giorni i suoi fornitori, il fornitore ti carica con un 10% in più di interessi, ma se io ti pago entro 2 mesi mi riprendo un bel 10%. Ecco un esempio che, se rispettato, può fare risparmiare davvero allo Stato un po' di soldi, però anche qui si tratta di annunci, vedremo. Così Del Rio. Un'altra questione riguarda invece Roma e l'emergenza rifiuti. Ce lo ricorda oggi il Messaggero. Sui rifiuti di Roma ora tocca al sindaco Marino evitare l'emergenza. Intervista al ministro Galletti, il sindaco trovi una soluzione, ne ha i poteri. Succede che venerdì scorso, ieri, il sindaco di Roma ha detto che il 26 maggio è l'ultimo giorno nel quale c'è posto per mettere i rifiuti di Roma nelle discariche attuali. Dopo lui non sa più dove metterli, manca un paio di mesi scarsi. E allora il ministro ha convocato sia Marino che il presidente del Lazio Zingaretti per dirgli: beh, però una soluzione dovete trovarla voi, perché tocca alle amministrazioni locali trovare una soluzione su questo. Dice oggi Galletti: io posso avere la funzione di facilitatore, ma solo se gli amministratori locali si presenteranno con un piano credibile anche dal punto di vista ambientale. Penso ad esempio all'aumento della raccolta differenziata, faremo di tutto per velocizzare le procedure, bla bla bla. Ma ripeto, io ho convocato per mercoledì il Comune di Roma, la provincia, la regione, la prefettura per le rispettive responsabilità. Dovranno essere loro a dirci cosa fare per evitare che non accada ciò che il sindaco Marino ha pronosticato. Insomma, si tratta di un film già visto. Roma è in difficoltà e chiede aiuto al governo, ma questa volta il governo rispedisce al mittente queste richieste. Mercoledì prossimo ci sarà un incontro e staremo a vedere se Roma farà la fine di alcuni anni fa Napoli, con i rifiuti in mezzo alla strada, o se arriverà una soluzione e quale sarà questa soluzione. Libero di oggi invece si occupa di un'altra notizia. Vi ricordate l'incontro a sorpresa tra Berlusconi e Napolitano per parlare delle riforme, ma anche e soprattutto dell'agibilità politica dell'ex premier? Scrive Libero: Forza Italia rischia di sparire e Napolitano sta a guardare. Inutile girarci intorno, dice Maurizio Belpietro. Forza Italia rischia di sparire, se proprio non sparisce si avvia sul viale del tramonto. Col cavaliere fuori dai giochi il partito potrebbe sparire. Anche per questo il leader azzurro era salito al Quirinale. Si parla del futuro di una forza politica tra le più importanti del paese. Napolitano non può far finta di niente. Da quel che ci è dato sapere, scrive Belpietro, il cavaliere non molla e dopo Forza Dudù pensa a Forza Lulù, cioè alla versione felina del Barboncino Bianco. Tra le idee che coltiva ha gli aiuti alle persone anziane, l'assistenza, le dentiere, scrive Belpietro testuale, e tanti altri bei progetti. Tuttavia gran parte di questi propositi rischiano di restare lettera morta se Berlusconi non sarà in grado di rappresentare gli italiani le sue intenzioni. Senza di lui in campagna elettorale c'è il pericolo che i bei progetti restino tali, perché pur disponendo del Maradona della politica, la squalifica gli impedisce di giocare o lo costringe sulla panchina. Un lungo articolo di Belpietro che poi non specifica cosa dovrebbe fare Napolitano per evitare questa situazione. Scrive così alla fine: un presidente di una repubblica che si dice democratica non può fare il Ponzio Pilato. 800 24 00 24, sin qua le prime pagine dei giornali. Tra poco torniamo, parleremo prima di OGM, perché in vista di una sentenza del TAR del Lazio sulla possibilità o meno di coltivare in Italia organismi geneticamente modificati, oggi c'è una giornata di mobilitazione di Legambiente e della Coldiretti contro questa prospettiva degli OGM. Tra poco, dopo la pubblicità. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sono rimasto senza fiato quando mi sono ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così ho capito nella vita il significato e il valore inestimabile di un prato concimato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ritardato. Si dice che il prossimo 9 aprile il TAR del Lazio si esprimerà sul ricorso dell'agricoltore friulano Giorgio Fidenato contro il decreto interministeriale che proibisce la semina di mais Monsanto 810, una coltura geneticamente modificata. Se il TAR dovesse accogliere tale ricorso, si prefigura il via libera alle coltivazioni transgeniche in Italia. E contro questa possibilità si sono mobilitate una serie di associazioni, Legambiente, Coldiretti, Greenpeace, che invece vogliono dicono loro, difendere la produzione agricola italiana di qualità. Oggi una giornata di mobilitazione in tutta Italia, la Task Force per l'Italia libera da OGM. Voi cari ascoltatori cosa ne pensate? 800 24 00 24. Noi intanto abbiamo convocato Maria Grazia Mannucci, vicepresidente dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi intanto che cosa prevede questa giornata, questa task force contro gli OGM? Appuntamenti, manifestazioni, presidi, cosa fate? La scelta è stata quella di fare presidi informativi, perché l'obiettivo per noi è proprio informare di nuovo i cittadini. Sì. Di quello che sta succedendo in Italia sugli OGM e quello che significherebbe l'apertura di coltivazioni OGM nel nostro paese. Quindi ci sono presidi in molte città, da Firenze, Milano, Padova, Bologna, Torino. Sì. Dove tutte le associazioni della Task Force convergono. Sì. Per distribuire materiale informativo. Ecco, adesso poi ci dirà anche proprio il punto della questione, perché voi siete preoccupati per questa sentenza del TAR del Lazio. Però intanto le chiedo, quali associazioni, io ne ho citate alcune, fanno parte, sostengono questa task force contro gli OGM in Italia? Chi ne fa parte? Ma ad oggi siamo 39 associazioni, è una rete di alleanze molto vasta, e quindi oltre all'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, Biodinamica e l'Unione Produttori Biologici, naturalmente ci sono le grandi associazioni ambientaliste, Legambiente, WWF, SAI, c'è Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Greenpeace e molti altri ancora. E la cosa molto bella è che in questo periodo, dove con questa ripresa. Sì. Dell'iniziativa della Task Force arrivano continuamente nuove richieste di adesione alla Task Force liberi da OGM, quindi il consenso dei cittadini cresce. A un'agricoltura libera da OGM aumenta, non diminuisce. Senta, sul punto proprio in questione, la sentenza sarà sul ricorso di Fidenato, no? Che vuol piantare e ha già piantato, credo, della semina OGM. Sì, nel 2013 in Friuli ha seminato, per la verità la semina è venuta in assenza del decreto interministeriale. Sì. Poi, sul quale ha dopo. Fatto ricorso recentemente al TAR del Lazio, mentre invece ha raccolto il mais in questa situazione un po' incredibile, in cui in vigenza di un decreto interministeriale agricoltura, ambiente e salute, che vietava la coltivazione e la raccolta di mais Monsanto 810, ha regolarmente raccolto senza che ci siano stati interventi. Sì. Questo è stato un punto veramente negativo. Noi cerchiamo che oggi, con una sentenza che riguarda un singolo agricoltore, non venga, diciamo, leso un principio democratico, dove le istituzioni hanno approvato un decreto che rappresenta veramente l'opinione della maggioranza dei cittadini. E tra l'altro è curioso, quantomeno, che ancora una volta sia un tribunale, dei giudici, a decidere di cose così importanti che possono avvenire in Italia. Pensiamo a caso Stamina, sono stati giudici a decidere che si potesse fare, così come le elezioni in Piemonte sono stati giudici a decidere. Ovviamente i giudici devono decidere, i TAR però sono chiamati a decidere ormai su tutto, anche sugli OGM in Italia. Un dibattito che addirittura non ha risposte nette nemmeno in Europa, a livello di politica agricola europea, figuriamoci cosa può decidere un tribunale. Ma questa è una mia personale, diciamo, manifestazione, una perplessità. Però, sicuramente motivata. Grazie di condividerla insieme a me. Quello che le voglio dire, però, è ben strano anche un'altra cosa. Cioè, noi abbiamo un ex ministro dell'agricoltura, Zaia, presidente del Veneto, che dice l'Italia non ha bisogno di OGM. Martina, il ministro, che ha detto la stessa cosa più o meno proprio ai nostri microfoni qualche tempo fa. Tutte le associazioni di agricoltori sono contrarie, poi però sembra che gli OGM debbano per forza ormai entrare nella nostra vita. Perché? No, perché è abbastanza singolare, non si riesce, cioè il perché forse può essere abbastanza chiaro, ma il punto è che tutte le acquisizioni scientifiche degli ultimi anni, ma anche a livello diciamo delle grandi riviste scientifiche a livello internazionale, pongono problemi per quanto riguarda l'impatto sulla biodiversità e lo sviluppo di resistente sia per le piante infestanti che per gli insetti. Recentemente sono usciti i dati, 5 insetti resistenti nell'Iowa negli Stati Uniti stanno determinando danni alle stesse colture OGM. Ma al di là di questo, sospendiamo per un attimo la discussione sul piano scientifico e discutiamone sul piano economico. Il modello di agricoltura italiana basato sulla qualità, la tipicità, il rapporto sul con il territorio e le produzioni agricole, sì, lo sviluppo dell'agricoltura biologica non ha bisogno del modello che gli OGM rappresentano, cioè quello delle grandi estensioni della monocoltura finalizzata alla produzione di commodity. Questo è proprio il punto che sostiene Zaia, l'ex ministro, e che anche Martina aveva detto di appoggiare, il ministro attuale dell'agricoltura. Ma questo è sicuramente un punto che unifica tutti. Invece a chi commentando le vostre iniziative vi accusa di oscurantismo, cioè di dire che se fosse dipeso da voi nel Medioevo non si sarebbero piantate nemmeno i pomodori e le patate, cioè che siete contro l'innovazione, lei cosa risponde? No, questo oggi è veramente un argomento sbagliato, perché tutto quello che sta emergendo nel campo della ricerca e dell'innovazione sono frontiere completamente diverse, che guardano a, diciamo, le dinamiche della natura come riferimento anche per innovazioni soft che rispettino la biodiversità, il territorio. È questa la grande innovazione per il futuro nell'ambito della ricerca. In realtà gli OGM sono una tecnologia vecchia che oggi sta dimostrando tutte le ricadute negative proprio anche sul piano della biodiversità e dello sviluppo di resistenze anche oltre a quello che gli scienziati potevano aver già previsto all'inizio dello sviluppo di queste coltivazioni. Cioè in realtà si dimostra sul piano scientifico, è questo il punto secondo me, il non voler vedere le evidenze scientifiche che sono emerse negli ultimi anni sugli OGM. Questo è un oscurantismo, non il nostro. Grazie Maria Grazia Mammucci, vicepresidente dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, grazie per essere stata con noi in rappresentanza della Task Force per l'Italia Libera da OGM. Io non vorrei essere nei giudici del TAR del Lazio che devono decidere appunto sugli OGM in Italia. 800 24 00 24, cari ascoltatori, voi che cosa ne pensate? Traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. No more pretending. I always wanted a good girl. Yeah, I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good girl. Can't let it get past me. It's all from plastic. Talking about getting blasted. Everybody get up. Buongiorno anche a Carlo Gabardini. Buongiorno, buongiorno Alessio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Caro Carlo, ben ritrovato, buon sabato. Grazie mille, stai bene? Tu nelle tue piantine sul balcone pianti OGM? No. No, io pianto del basilico che poi puntualmente, diciamo, di cui poi puntualmente su Twitter faccio, sì, la cronaca della lenta morte di questa pianta di basilico che di solito mi muore quasi subito. Fammi dire solo una cosa, Carlo, certo, perché gli ascoltatori ci scrivono al 349-388-6666 che gli ambientalisti faranno morire di fame il pianeta. Continuate a far parlare sempre soltanto loro. Loro chi? Gli OGM che parlano ormai. No, ci sono alcune piante che grazie agli OGM possono tenere dei discorsi. Allora, intanto, caro ascoltatore che ci scrivi, giustamente, anzi, noi aspettiamo le vostre opinioni all'800240024. Non sono tanto solo gli ambientalisti, ma sono anche le associazioni degli agricoltori, la CIA e la Coldiretti. C'è un ex ministro. La CIA? La CIA, la Confederazione degli Agricoltori, c'è un ex ministro Zaia della Lega, un ministro attuale del PD, che dicono che il modello Italia non si adatta a queste culture estensive OGM. Poi insomma non è una questione di essere contro l'innovazione, ma contro un modello forse di agricoltura. Questo almeno è quello che ha detto la rappresentante dell'AIAB, l'agricoltura biologica e di qualità. che fra l'altro va benissimo perché tutti segni più davanti alle esportazioni della nostra agricoltura, quindi non abbiamo bisogno forse di modificarlo questo modello, noi italiani almeno. Questa è la mia opinione. Carlo, eccoci qua. Volevo dire questo: che cosa ha reso bella la mia settimana? Beh, innanzitutto mi ha fatto molto ridere la comunicazione di Ferrero, che per Nutella ha fatto uscire un cartellone con un vaso di Nutella per il 1° aprile con su scritto oggi marmellata, che diciamo quasi in risposta al mio video mi ha fatto molto ridere questa cosa. Ma la vera cosa che ha reso bella la mia settimana, che però fa già parte delle notizie, riguarda anche te, Alessio, perché sono stato a Busto Arsizio al BAF Film Festival per presentare questo film Il Pretore di Giulio Base con Francesco Pannofino, nel quale faccio l'attore, quindi ero lì in veste d'attore, anche se ero vestito malissimo ed erano tutti elegantissimi, non avevo capito che fosse una prima. Ed era il motivo per cui quest'estate non sei stato presente. Esattamente, tutte le quindi è per questo anche che ve lo racconto, perché è sempre, sì, diciamo, la mia biografia si intreccia assolutamente. E che è successo? Ed è successo che tra, diciamo, Busto Arsizio, poi il film è stato fatto vedere a Varese in un grosso cinema con 1200 persone, c'era pure Maroni a guardare il film. Tra queste due cose, il direttore esecutivo del festival, Paolo Castelli, mi porta in giro per Busto Arsizio e mi porta in una libreria. Entro in questa libreria e parlo con proprietaria della libreria e lentamente scopro che è la libreria Boragno, di cui abbiamo parlato qui in trasmissione. Colpo di scena. E è quella libreria che è stata, diciamo, compartecipata, che ha chiuso per un periodo di 8 mesi, scrivendo, avevano scritto un cartello, momentaneamente chiuso, che era in e crisi. Poi, esatto, hanno trovato in crisi perché ha aperto un'altra grossa libreria a Busto, diciamo, della grossa distribuzione. Questa invece è una libreria storica della quale tutti i bustocchi sono molto affezionati, quindi in 40 soci, mi sembra all'inizio che erano 32, adesso mi sembra che siano una quarantina, hanno messo 5.000 euro a testa. Lettori che sono diventati soci, bellissimo, l'avevano raccontato. E quindi niente, intanto Francesco, quindi ho fatto un po' l'inviato, diciamo, di Si Può Fare. Bello. Per andare a verificare se effettivamente questa libreria, perché esiste, funziona, sono tutti felicissimi e soprattutto sono felicissimo anche le persone che ci lavorano dentro, perché mi hanno detto io avrei perso il lavoro, non sapevo cosa andare a fare. Sono contento perché noi a volte diamo delle notizie, facciamo degli annunci, poi non sappiamo bene come vanno a finire queste storie, a volte magari poi non sono tutte a lieto fine, invece questa volta è la dimostrazione infatti che la libreria Boragno esiste, funziona, sono felicissimi, bene. salutano tutti gli ascoltatori ed è stato molto bello. Io comunque mi candido per andare a verificare le nostre notizie, soprattutto anche se diamo altrove, qualche perfetto. Notizia, non so, argentina, brasiliana, Santo Domingo, così, esatto, perfettamente. Poi passo molto rapidamente a, mi ha fatto molto ridere Mario Draghi, che ha raccontato una barzelletta. Era a Francoforte durante una cena e ha raccontato la seguente barzelletta. C'è un uomo che ha bisogno di un trapianto di cuore e va dal dottore e il quale gli dice: guarda, se vuoi posso darti il cuore di un bambino di 5 anni. E l'uomo dice: no, vabbè, troppo giovane come cuore. Allora il medico gli dice: vabbè, allora ho il cuore di un quarantenne banchiere. E l'uomo gli dice: no, non è possibile, non hanno un cuore i quarantenni banchieri. A questo punto, esasperato, il medico gli dice: vabbè, guarda, ho il cuore di un banchiere centrale di 75 anni, lo vuoi? Ma certo, lo prendo subito. E perché questo ti va bene? Beh, perché non è stato mai usato. E mi ha fatto molto molto ridere. Anche ma perché Draghi poi non ce lo vede a fare a raccontare barzellette. Infatti, però. Ma tanto non ce lo vede un po' nessuno, sì. Che in realtà mi ha fatto anche ridere l'interpretazione, perché poi ovviamente nel momento che parla il presidente della Banca Centrale Europea, appunto Mario Draghi, tutti per qualunque cosa lui dica stanno a cercare di carpire le informazioni per capire se i tassi scendono, i tassi salgono, e se bisogna vendere le azioni. Cosa sono riusciti a carpire. E infatti, diciamo che l'interpretazione è stato che è un messaggio importante quello che dice Draghi, perché comunque sta spiegando che il ruolo della banca centrale è di prendere decisioni razionali e a sangue freddo in circostanze spesso difficili, quindi senza usare il cuore, diciamo. Questa è stata l'interpretazione. Non so che cosa voglia dire, se dobbiamo vendere. Ma non io posso intanto dire se niente. Posso aggiungere che, ripeto, la notizia che oggi un cui aprono alcuni giornali, la BCE è pronta un piano da 1.000 miliardi per far risalire l'inflazione, giusto così, sennò poi dicono che sennò non dicono che stiamo bene, no, esatto. Sennò poi gli ascoltatori dicono che parliamo a sproposito, io ho messo lì una notiziola. Ah, cioè ogni tanto bisogna sì, dire comunque l'euro, ti faccio da contrappunto. Vabbè, era una notizia sulla banca centrale, vabbè, era vabbè. Perfetto, chiudo con una notizia su Milano, dove si aprirà la prima clinica veterinaria pubblica, aiuterà chi non può pagare l'assistenza. Giusto. In realtà ancora un progetto in questo momento, una clinica veterinaria pubblica con spazi dedicati alla cura e alla degenza di animali domestici. È stata trovata l'area, che è di 200 metri quadrati in via Senigallia, quindi a Abruzzano, e adesso ci sarà un bando per cui le associazioni potranno... Siamo in piena onda animalista, giusto? Siamo in piena onda animalista, direi, dopo le parole di Silvio Berlusconi, che ha detto cani e gatti ci aiuteranno a vincere le europee, perché lui dice ci sono 10 milioni di persone che tengono un animale in casa per compagnia, quindi diciamo si è spostato e ha detto io mi occupo, addirittura ha invitato i club Forza Silvio a mobilitarsi per cercare una mamma e un papà ai cani che stanno nei canili, perché ha fatto proprio dei sondaggi in cui ha scoperto che il 90% delle persone che hanno un animale interpellate considerano il proprio cane come un componente della famiglia. Per dire, il 16% di queste donne, per esempio, dice che se dovesse scegliere fra il proprio animale domestico e il proprio marito, sceglierebbe il proprio animale domestico. Quindi, diciamo, Berlusconi ha capito, essendo un genio della comunicazione, ha capito che lì forse c'è un bacino di persone che votano, e quindi insieme, diciamo, gli abbiamo dato la sanità pubblica, adesso gli animali, secondo me molto presto gli daremo anche il voto ai nostri animali domestici, sicuramente prima che agli immigrati. 800 24 00 24, cari ascoltatori, cominciamo a sentire i vostri interventi. Cominciamo con, per esempio, Franco, che ci chiama dalla provincia di Brescia. Buongiorno Franco. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Volevo parlare degli OGM, semplicemente io lavoro in campo agricolo, più o meno figlio di agricoltore, seguo un po' la parte zootecnica. Ho paura dell'OGM semplicemente perché la storia ci ha spiegato e ci dimostra ogni giorno che in Italia i controlli non esistono, o se esistono sono veramente blandi. Quindi però bisogna dire che la ricerca deve comunque andare avanti, senza ricerca non possiamo fare niente, quindi è giusto provare, controllare. Grazie Franco, giusto, tra l'altro questo l'aveva detto anche il ministro Martina proprio ai nostri microfoni qualche tempo fa, cioè un conto è dire l'Italia non ha bisogno degli OGM perché ha un'agricoltura che funziona già benissimo per conto suo di qualità, un conto è dire non chiudiamo alla ricerca, anzi facciamo ricerca pubblica sugli OGM perché dobbiamo essere anche noi sulla cresta dell'onda delle innovazioni e non rimanere chiusi e arretrati. Dionigi da Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono un agricoltore. Sì. E a commento dell'intervento fatto dalla vostra ospite di inizio trasmissione, voglio dire questo. Dei contrari agli OGM, ci sono due categorie di persone o di associazioni. Le cose tipo Greenpeace, WWF, sì, sistema biologico, che sono contrarie per ragioni appunto ideologiche. Le associazioni degli agricoltori sono contrarie perché con i costi che ha l'agricoltura in Italia, se le nostre produzioni diventano delle commodities a livelli che competono con quelle a livello internazionale, sono morte, quindi difendono la specificità della produzione italiana, no? Sì, ma che cos'ha che non va la specificità della produzione? Questa è la mia domanda, visto che noi esportiamo, le esportazioni sono in crescita, il settore agricoltura in Italia cresce, io mi domando perché dobbiamo modificarlo se va già bene così. Aspetti, l'agricoltura esporta pochissimo, esporta l'industria che si occupa di prodotti agricoli, per capirci. Un conto è il grano prodotto dall'agricoltore, un conto è la pasta prodotta dagli industriali. Ma è sempre pasta prodotta con grano eventualmente italiano, o sono prodotti italiani? Eventualmente, che dice lei che non è. Sì. Cioè, non ma è io non guardi, prodotta con grano italiano. Non credo che l'Italia esporti il pane fatto con le farine che vengono dall'estero. Noi importiamo farina per fare pane per il nostro fabbisogno. No, per il nostro fabbisogno. Il vero problema è quello. Mi permetta, se il nostro problema è quello che da noi non esiste l'agroindustria, esiste l'industria che usa il Made in Italy per esportare e non vuole pagare il prodotto italiano in maniera adeguata. Grazie Dionigi, grazie. Grazie mille. Buona giornata, non lo so, poi si entra in valutazioni tecniche. Io il mio punto di vista l'ho già detto, se la nostra agricoltura va bene, è uno dei pochi settori che ha il segno più, del resto l'ho detto anche l'ex ministro Zaia e lo dice l'attuale ministro Martina, sono due partiti opposti, non credo che ci sia dietro una questione ideologica come diceva l'ascoltatore, è una questione di scelta di un modello di agricoltura da decidere. 800 24 00 24. Abbiamo detto cosa si vince? Sì. Abbiamo già detto cosa si vince? No, cosa si vince? Ah, si vince, certo. È certo che si vince. Vai, Carlo. Si vince, si vincono due coppie di biglietti della mostra di Klimt e due cataloghi. Due preziosi cataloghi. Esattamente. Per la mostra di Klimt chiamateci per raccontarci che cosa ha reso bella, per esempio, la vostra settimana. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua con la vostra canzone, il vostro Si può fare di oggi, è questo qua, Carlo Gabardini. Sì, chi? Signori, Every Teardrop is a Waterfall dei Coldplay. Questo mi pensavi di cogliermi impreparato, eh? È la prima volta che annuncio io la canzone. Valentina. E direi ogni lacrima è una cascata, giusto? La traduzione? C'è anche il nostro traduttore ufficiale dall'inglese. Sì, anche con la mia remoscia l'inglese non viene bene, viene meglio il tedesco, Devo ammettere. A me non viene assolutamente, perché sono completamente ignorante. Ma figurati, l'ignorante sono io del gruppo. La nostra ascoltatrice Valentina Nespoli ci suggerisce questa canzone, continuate a segnalarcele, a scriverci. È il suo Si può fare, di modo che noi faremo un CD con tutti i Si può fare, andremo in tournée Alessio, Maurizio ed io, lui canta e io non so, io metto le luci. Oppure facciamo che io metto le luci e tu balli. Va bene, ci potrebbe sto. Essere meglio, perché se io canto è la non fine. Lo so, non lo so, non è che io balli tanto bene, però non so come canti tu, quindi forse malissimo, potrebbe essere una bella lotta. Malissimo, malissimo. 800 24 00 24, ascoltatori, oggi siamo partiti dalla Task Force, no, OGM, le manifestazioni previste per oggi in vista della sentenza del TAR del Lazio il prossimo 9 aprile, e tra poco invece parleremo del caso Micron, l'azienda multinazionale americana che vuol dismettere 419 ingegneri italiani. Sentiamo gli ascoltatori, poi c'è anche la bella notizia della settimana per intervenire. Sentiamo Rocco che ci chiama da Bari. Buongiorno Rocco. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo intervenire sul discorso dell'OGM. Sì. Il coltivatore. Sì, che cosa coltiva lei? Olive da olio, uva da vino e un po' di frutta in genere. Che bello. Un'azienda agricola, sì, a Bari. Allora, volevo intervenire sull'OGM. Sì. Noi abbiamo le olive, un esempio, le olive. Le olive da olio le vendiamo a 20 euro il quintale. Cioè, mi voglio collegare al discorso dell'altro radioascoltatore, sì, che è intervenuto prima. I soldi, si dice sempre, si dice che l'agricoltura è in crescita. Voglio capire dove ci sono questi soldi, dove vanno a finire. Le multinazionali che trasformano le olive in olio le vendono, sì, all'estero, e loro fanno sì i soldi, ma non l'agricoltura. Sì, questo è un problema. Pronto? Sì, sì, la sentiamo bene Rocco. Questo pronto, è... ascolta? Sì, sì, la sì, sentiamo Rocco. Questo è un problema in effetti, perché la remunerazione di chi fa il prodotto in agricoltura in effetti è una cosa che l'abbiamo sentito dire spesso, non sempre funziona in maniera, come dire, corretta, non c'è la giusta retribuzione dello sforzo fatto. E quindi questo è vero, Rocco. Però in particolare sugli OGM lei voleva dire qualcosa? Visto che lei è agricoltore? Pronto? Sì, Rocco. Voleva dire qualcosa di più sugli OGM in particolare? Allora, niente, sull'OGM siamo obbligati ad arrivare sull'OGM con meno spese per combattere i prezzi bassissimi. Ho capito. Cioè, Rocco, lei però qualità, scusi, lei mi sta dicendo che mi sta dicendo, Rocco, che se ci fossero le olive geneticamente modificate, lei le produrrebbe. Ma arriveremo, perché non si può Vabbè, non lo sentiamo più, peccato. Grazie Rocco, Donatella. È colpa degli OGM, probabilmente. È un telefono, c'è un'interferenza, diciamo, geneticamente modificato. Donatella da Napoli, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Prego. Allora, io volevo dire qual è stata la bella notizia della settimana. Siamo tutto orecchie. Siamo felici. Sì, sono molto felice perché mia figlia inopinatamente ha avuto un contratto a tempo indeterminato. Inopinatamente. Bellissimo. Ecco. E dove? Al primo rinnovo a Roma. A Roma in una fondazione per i diritti umani. Ah, benissimo. Ed è il lavoro che voleva fare, spero, suppongo. Certamente, la cosa che voleva fare, ma... ha lottato molto per farla, ha avuto un primo contratto che scadeva il 31 marzo. Insomma, forse è la più bella notizia di tutto l'anno, direi questo. Una ragazza che trova il lavoro, quello che voleva fare da grande. Siamo molto contenti. Esattamente. Grazie Donatella, lei grazie partecipa, mille. Si candida sicuramente per vincere i biglietti della mostra di Klimt più il prezioso catalogo, mostra in corso a Milano. Complimenti e congratulazioni a lei e alla figlia soprattutto, vedi? Ogni tanto si può fare. Andiamo con Paolo da Verona, buongiorno. Sì, Paolo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Paolo. Buongiorno. Sì. Senta, io sono un agricoltore qui di Verona, quello che non riesco a capire è una cosa semplice, non so se poi il popolo italiano lo sa, noi lo stiamo già mangiando prodotti OGM tremendamente, lo stiamo utilizzando a l'inverosimile, basti andare nel porto di Ravenna e vediamo quanto ne stiamo importando. Allora io mi chiedo, perché dobbiamo mangiarlo e non possiamo produrlo e essere noi come agricoltori competitivi? Prima cosa. Seconda cosa, che questa veramente mi fa anche un po' arrabbiare, è questo. La nostra maggiore associazione di categoria, fortunatamente non la mia e non so poi chi rappresenta, a parte i pensionati o altre persone, ci dice che non dobbiamo fare OGM. Allora mi spieghi lei perché il presidente di questa associazione coltivatori diretti di Verona, che fino a qualche mese fa era anche presidente del consorzio agrario, sta tuttora producendo mangime per la zootecnia con tanto di cartellino e su scritto che è prodotto con colza, soia, mais, OGM. Non c'è qualcosa di strano in tutto questo? Cioè, vogliamo soffocare l'agricoltore italiano per beneficiare chi? Noi lo mangiamo, lei sta mangiando nella sua pasta. Quando il radioascoltatore prima era intervenuto dicendo nella pasta noi lo stiamo mangiando, lei si è un po' stupito di questo. Noi lo stiamo già mangiando, basta andare a vedere le etichette. No, io ho detto, però non possiamo produrlo. No, ma è mi scusi, questo che mi fa arrabbiare. La capisco, in effetti il discorso non fa una piega da un certo punto di vista. La cosa che mi chiedo è, forse, lei giustamente dice perché dobbiamo pagarla noi questa cosa, tanto gli OGM tutti li mangiano, gli unici che però decidiamo di non produrli siamo noi e questo crea un danno agli agricoltori, però forse crea anche invece una buona pratica per cui lentamente ci si accorgerà che è meglio fare senza OGM. No, me lo chiedo, guardi, io non voglio avere ragione perché non lo so. No, ma mi permetto una cosa. Allora, visto che il nostro prodotto è stupendo, paghiamo di più il nostro prodotto e bravo, è questo. Un applauso, bravo Paolo, è questo appunto, sono d'accordo. Chiedo scusa, però perché proprio questa categoria, la coltivatori diretti, che è associata anche poi nei consorzi, questa categoria utilizza prodotti OGM importati dal resto del mondo e soffoca l'agricoltore italiano? Allora, io voglio fare l'agricoltore, voglio produrre, non sto qui a discutere del perché o del come, io voglio sopravvivere. Però non esiste che importiamo questo prodotto e poi le stesse persone che ce lo vietano di fare, anziché presentare una cosa, stiamo pagando anche una. Va bene Paolo, ho capito, grazie. Questa è una bella contraddizione, però a me piace invece la sua conclusione di prima, cioè paghiamolo di più il prodotto italiano, sosteniamolo, incentiviamolo, teniamolo in piedi l'agricoltore italiano, tagliamo qualche passaggio nella distribuzione tra il prodotto, tra la terra e la tavola. Ci sono troppi passaggi, c'è troppa gente che ci mangia sopra, l'agricoltore non ci mangia nulla e non va bene, così si strozza l'economia e si spinge alcuni agricoltori, avete sentito, quasi a dire sarebbe meglio fare l'OGM che ci costa di meno in termini di produzione, chi se ne frega se il prodotto non è di alta qualità come è l'agricoltura invece italiana oggi, ma a noi andrebbe meglio, non si può fare il biologico sulle spalle dei coltivatori italiani, questo è vero, ci vuole l'intervento della filiera, del governo, soprattutto farle insieme queste due cose, perché se uno inizia a dire intanto non producete gli OGM però non si fa la politica invece sui prezzi di pagarli di più, uno che fa l'agricoltore giustamente si inalbera. Traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare Cronache da un paese migliore. Ho smarrito un giorno il mio circo, ma il circo vive senza di me. Non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te. Nell'arco di una luna io farò di te un baro pure un re. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. 419 lavoratori della Micron hanno messo un annuncio su eBay, il noto sito di vendite online, con scritto 419 eccellenze Micron cercano lavoro. Così siamo venuti tutti a conoscenza della situazione, della crisi di questa multinazionale americana in Italia. Non è una crisi in realtà, perché i numeri dell'azienda sono buoni, ma la multinazionale vuol dismettere questi quattro stabilimenti in Italia, che sono ad Arzano, provincia di Napoli, Avezzano all'Aquila, Catania e Vimercate in provincia di Monza e Brianza. E allora ne parliamo con una di loro, Giusy Piccioni, ingegnere di Micron. Buongiorno. Sì, salve, salve. Che ieri ha incontrato, lei come insomma tutti gli altri rappresentanti della Micron, il sottosegretario Lotti e il ministro dello sviluppo Guidi. Però ci faccia, adesso ci dice tutto quello che vi hanno detto, speriamo che si possa fare qualcosa per salvare questa situazione. Ci faccia riepilogare un attimo qua in studio le iniziative. 800 24 00 24 per intervenire al solito, ma anche per scriverci. Il contest diventa inviato, si può fare, la parola è questa settimana, volontariato, quindi scriveteci alla mail. Il nostro contest cerca degli inviati, quindi chiunque di voi abbia voglia di fare l'inviato di Si può fare, per una volta, per dare una notizia, deve trovare una buona notizia o comunque una buona pratica che riguardi in qualche modo il volontariato e ce la racconta. Dopodiché noi vi richiameremo e vi investiremo del ruolo di inviato e poi darete la notizia in diretta sabato prossimo. E questa settimana raccogliamo, oggi tra poco, tra un quarto d'ora, l'inviato sul tema del lavoro. Il lavoro avevamo scelto l'altra settimana e noi partiamo proprio in ora con questa storia qua, che ha a che fare con il lavoro e con il caso Micron. Giusy Piccioni, lei è ingegnere? Sì, io sono ingegnere elettronico e da 15 anni lavoro nel campo della microelettronica in Italia. Ho cominciato con la ST Microelectronics nel 1999 e poi la ST Microelectronics, dopo un percorso che ho fatto all'estero, ho fatto tanti anni all'estero, nel 2010 la ST Microelectronics fa una cessione di ramo d'azienda alla Micron, che è appunto una multinazionale americana che già era presente in Italia con uno stabilimento ad Avezzano, e diciamo cede tutti noi ingegneri, matematici e fisici dell'ST Microelectronics. Appunto veniamo ceduti alla Micron. La Micron, diciamo, ci ha messo a disposizione con le tecnologie americane, i loro stabilimenti, le loro procedure, quindi diciamo noi abbiamo operato in un contesto sicuramente molto favorevole anche per la nostra professionalità, e abbiamo diciamo fatto dei fatturati, contribuito al fatturato di Micron, che appunto ha chiuso, proprio ieri abbiamo ricevuto la comunicazione della chiusura del secondo trimestre fiscale finanziario dell'azienda, con un fatturato di più 4. Allora, ecco, già un punto è questo: i numeri della Micron sono positivi. La Micron, che acquista questi ingegneri, questi fisici, questi progettisti informatici italiani dalla ST Microelectronics, che tra l'altro è un'azienda italo-francese a partecipazione statale. E quindi a questo punto si crea la situazione assurda per cui la Micron, che non è in crisi, vuole abbandonare l'Italia e vi propone di andare a lavorare negli stabilimenti esteri. Quindi c'è qualcosa che non va in Italia secondo la Micron, o che cosa? Assolutamente sì, perché diciamo la Micron, quindi con il board che sta in America, non ce l'ha con la figura dell'ingegnere italiano, che al contrario è sempre stato gratificato sia da un punto di vista economico che da un punto di vista proprio professionale, perché abbiamo avuto dei percorsi di carriera anche importanti. Il punto è che l'ingegnere in Italia, italiano va benissimo, ma non va bene in Italia. Deve stare all'estero. Però è una storia assurda, perché a parte che voi le posizioni che vi hanno offerto all'estero addirittura costerebbero di più di quello che, loro spendono in Italia. All'estero dove? Allora, le posizioni che ci sono state offerte sono principalmente negli Stati Uniti. Ah, però, cioè sono... spostarsi sul serio, non è che uno dice... qua di fianco in Svizzera, cioè bisogna, no, secondo no, loro no, uno no. deve trasferirsi negli Stati Uniti. Sì, allora tra l'altro nell'Idaho oppure in California, e poi diciamo c'è anche un piccolo, ci sono anche due piccoli poli a Manchester, quindi in Gran Bretagna, e a Monaco in Germania, però diciamo il grosso è negli Stati Uniti e a Singapore. Però scusi, se io dicessi, no, cioè la Micron multinazionale americana arriva in Italia, acquisisce brevetti, tecnologie e lavoratori italiani, ma soprattutto i brevetti, le tecnologie, vi fa lavorare per un po', poi se ne va, molla i lavoratori, chiude gli stabilimenti in Italia, intanto si porta via un po' anche di tecnologie, dopo aver avuto anche dei sussidi pubblici. No, infatti in realtà si porta via dei soldi, perché se non sbaglio ha preso 150 milioni di contributi italiani, giusto? È vero? Allora, io sul dettaglio dei numeri non vorrei entrare, perché sono delle cose molto tecniche, io non sono in grado di dire quanto è il dettaglio, però sicuramente la nostra formazione degli ingegneri che provengono dall'ST Microelectronics è stata fatta con denaro pubblico, perché noi siamo il frutto di un procedimento di assunzione che fu iniziato a fine anni 90 fino a tutto il 2004 all'incirca, 2004-2005, per cui per ogni ingegnere assunto nel mezzogiorno c'erano degli sgravi fiscali importanti, per cui era molto conveniente diciamo assumere un ingegnere nel mezzogiorno, per esempio, piuttosto che nel settentrione, proprio perché c'erano queste politiche di supporto e di assistenza per il mezzogiorno. Quindi comunque la nostra formazione è stata pagata con denaro pubblico, quindi mettiamola come vogliamo, ma diciamo noi abbiamo utilizzato dei contributi statali. Tra l'altro Giusy, questa è anche la settimana nella quale c'è stato il dato sulla disoccupazione record al 13%, no? Sì, quindi è incredibile, il governo dice che si vuol muovere, poi però voi ieri avete incontrato il governo, e cosa vi hanno detto il ministro Guidi? Ecco, la cosa è questa: noi ieri siamo stati a manifestare a Roma, abbiamo fatto una mattina a Palazzo Chigi e il pomeriggio invece al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, e abbiamo ricevuto nella giornata di ieri due messaggi fortemente contrastanti, perché al mattino abbiamo incontrato il sottosegretario Lotti, il quale ci ha garantito supporto da parte del governo durante l'ultimo giorno delle trattative sindacali, che sarà appunto lunedì 7 aprile. E quindi siamo rincuorati da questo messaggio, noi siamo andati al MISE, dove le nostre rappresentanze sindacali nazionali ed unitarie hanno incontrato il ministro Federica Guidi, e qui diciamo è stato per noi invece un colpo veramente molto forte, in quanto la ministra Guidi ci ha suggerito tra le possibili alternative anche quella di emigrare all'estero, quindi diciamo di prendere in considerazione l'opportunità di svolgere le nostre professionalità all'estero. Cioè, vi ha detto, io se fossi in voi andrei. E le parole proprio però se non le voglio finire. No, vabbè, cioè, che detto tra amici al bar ci può anche stare, ma detto dal ministro dello sviluppo uno si aspetterebbe qualcos'altro, forse. Assolutamente. No, soprattutto perché pagare con soldi pubblici italiani la formazione di ingegneri italiani che poi vadano a lavorare in una ditta americana negli Stati Uniti, forse è un po' troppo. Ma anche perché, diciamo, per noi un percorso formativo comincia sui banchi di scuola, quindi noi abbiamo studiato nel paese Italia, ci siamo laureati nelle università italiane, e dunque il nostro processo si dovrebbe concludere con una professionalità al servizio del paese Italia. Ecco, però mi faccia dire una cosa a questo punto, Giusy, perché siccome il programma si chiama Si può fare, siamo sempre in cerca di buone notizie, in effetti voi vi siete messi in vendita su eBay ed è stato un modo così per far sentire la vostra voce in un modo originale, però non è uno scherzo, perché lo stabilimento, l'altro ex Micron di Avezzano, quello grosso con più di 1000 persone, che era in crisi anche quello, è stato, sì, noi ne abbiamo parlato, acquisito e rilanciato da una cordata di imprenditori italiani e tedeschi. Tra l'altro imprenditori italiani, diventati imprenditori, erano manager dello stabilimento proprio di Avezzano, e noi ne avevamo parlato come di una buona pratica. Quindi potrebbe essere un consiglio per qualche manager, per qualche investitore veramente, di prendersi questi 419 lavoratori d'eccellenza Micron e farci un bello stabilimento di microchip in Italia. sarebbe un'idea molto molto allettante, e il punto è che dovremmo chiederci: questo governo oggi ha intenzione di investire in microelettronica? Questa è la domanda chiave, perché noi siamo in grado di fare microelettronica ad alto livello, ma esiste una, diciamo, tra gli obiettivi del governo c'è anche quello di puntare sulla microelettronica, sulle tecnologie, sull'high tech? Cioè, perché lei dice oggi, se la microelettronica in realtà non è di interesse nazionale, se viene fatta solo all'estero, allora vi conviene andare all'estero. Ascolti, io sono dissento da questo punto di vista, perché se noi oggi non investiamo in tecnologie, automaticamente stiamo accettando fra 10 anni di essere colonizzati dai paesi stranieri. Cioè, non investire in tecnologie significa automaticamente avere segnato la nostra fine, il nostro collasso. Vedremo, speriamo soprattutto, ma speriamo, e oltre che il governo che si muova, anche io lo rilancio un appello, perché no, a qualche investitore italiano. Ci sono 419 lavoratori d'eccellenza su eBay che costano pochissimo, usati pochissimo. Usati pochissimo, non lo so, perché hanno prodotto bene fino ad ora, però sono sicuramente giovani. Ancora giovani e forti, perché no, insomma, fatevi avanti, potrebbe essere davvero un'occasione di rilancio. Se se ne va la Micron, arriva un compratore, qualcuno che rilancia, magari sostenuto dal governo italiano. Grazie Giusy Piccioni, in bocca al lupo per il caso Micron. Grazie a voi. Sentiamo un ascoltatore, va? Pierroberto da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Questo problema era già stato dibattuto alla vostra radio 15 giorni fa. Ed era intervenuta una collega dell'Ingegner Piccione. Ma qual è il problema? Il problema della Micron, dice? Sì. Il problema della Micron, sì. C'era un collega di Aversano, dell'ingegnere che avevate in linea, che diceva che sostanzialmente tutto questo è nato dal fatto che la Micron voleva ridurre il personale di 10%. Sì, sì, c'è stata un'avvertenza, una trattativa, che non hanno trovato l'accordo. Praticamente non riuscivano a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati. C'erano comunque previsti degli esuberi, 100 esuberi. Sì, perfetto, quasi 10% avevamo promesso. Visto considerato che il 25%, come aveva fatto esattamente nelle altre, chiamiamole, filiali della stessa ditta. Non è stato accettato questo piano di condizionamento, chiamiamolo come vogliamo. È colpa dei sindacati, Pierroberto? No, non è colpa dei sindacati, è colpa dell'ottusità, che è sempre colpa di qualcun altro. E quindi di chi è la colpa? Non ho capito. Secondo lei? Della poca esplicità, cioè è meglio stare a casa in 400 che ricollocarne 100. Grazie Pierroberto. No, lui dice che era meglio accettare l'accordo e mandare a casa 100 persone e salvare gli altri 300 anziché mandarli a casa tutti e 400. D'accordo. Io invece dico che la soluzione bella è quella dello stabilimento di Avezzano, dove dopo un po' di tentennamenti e anche lì di bracci di ferro col sindacato si è trovato un investitore europeo tedesco al 50% più una cordata di imprenditori italiani che hanno rilevato uno stabilimento che va benissimo, e potrebbe succedere stessa cosa anche in Italia col sostegno magari del governo. Gli stessi che lavoravano all'interno dello stabilimento? Sì, gli stessi, sì. Sono compartecipati, diciamo. Esatto, quindi potrebbe essere replicato questo modello, perché no, anche per gli altri lavoratori del Micron. 800 24 00 24, ci fermiamo un secondo, poi aspettiamo le vostre belle notizie per vincere i biglietti della mostra di Klimt. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Raccontarlo insieme a voi, il mondo meraviglioso, l'Italia che funziona, grazie alla nostra iniziativa Inviati Cercasi, il nostro contest. Ogni settimana cerchiamo inviati tra le buone notizie. Per la prossima settimana la parola è volontariato. Invece per la settimana della settimana passata era lavoro. E quindi sentiamo. Oggi abbiamo i nostri primi, no, in realtà sono i secondi. Però sono un po' i nostri primi, perché l'ultima volta abbiamo avuto un bravissimo giornalista che però, diciamo, era già giornalista. Questa volta noi cerchiamo siamo all'opposto, perché abbiamo proprio loro, sono i protagonisti della buona notizia. notizia che ce l'hanno segnalata proprio loro, sono i ragazzi ideatori di Ritorno al Futuro, un incubatore di impresa in provincia di Verona. Abbiamo in linea con noi Adalberto Canteri o Canteri. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Ciao Adalberto, Canteri o Canteri, come dobbiamo? Canteri. E allora, dal nostro inviato Canteri, Canteri alla provincia di Verona, esattamente San Giovanni Lupatoto, ci ha colpito, ci è piaciuta questa notizia, perché insomma, fra l'età, nella settimana tra l'altro in cui abbiamo toccato il record di disoccupazione 13%, e il dato che dicono tutti ancora più sconvolgente è quello dei giovani, siamo credo a più del 40% di disoccupazione tra i giovani, e quindi è proprio una cosa che bisogna, fa star male, bisogna reagire. E allora abbiamo detto, beh, tra le cose che ci sono arrivate dobbiamo per forza selezionare loro, un gruppo di ragazzi, età media? L'età media sono i 25 anni più o meno, sì. Si va da 20 a 27? Andiamo dai 20 ai 27 più o meno. Sì. E proprio come avete detto appena adesso voi, il periodo non è uno dei migliori. Dopo i commenti del signor Elcana, allora abbiamo deciso insomma di rimboccarci le mani, cioè quando ha detto che c'erano troppi bamboccioni che stavano a casa, esatto. Allora avete detto, ve lo facciamo vedere noi, caro il can, abbiamo detto ci mettiamo alla prova noi, e mettiamo alla prova anche le persone, insomma altri giovani a disposizione per dare vita alle proprie idee, e abbiamo avuto questa idea. E non vi siete demoralizzati, avete deciso di fare che cosa? Abbiamo deciso di organizzare nel nostro comune un incubatore di impresa, sostanzialmente è una struttura che permette a un'idea di impresa di fare il suo corso, quindi forniremo l'aiuto alla stesura di un business plan, un aiuto per la consulenza commerciale e legale, un aiuto alla caccia, diciamo, sempre più difficile ai fondi di investimento. E probabilmente daremo anche a disposizione uno spazio per co-working. Ecco, sostanzialmente questo è il progetto nostro. Abbiamo trovato anche sostegno dal comune, sì, San Giovanni Lupatotto, e ecco, questo è il progetto. E come sta andando? Siete contenti? Dalla voce mi sembri tristolino. No, siamo assolutamente contenti. È l'inviato che è tristolino o è l'intervistato che sei sempre tu? Perché ricordiamo che questo è un caso, nel senso che tu sei sia colui che per noi fa l'inviato e dà la notizia, sia la notizia. Esatto, cioè almeno uno dei due deve essere allegro, però. No, assolutamente sono allegro, passate pazienza, ma la sveglia è stata presto questa mattina. E lo dici a due che si sono svegliate alle 6 per Adalberto, essere qui. Alberto, devi abituarti a svegliarti presto se vuoi fare un incubatore di imprese, perché non è, certo, che si, certo, può iniziare la mattina. Si incuba la mattina? No, non bisogna perdere tempo, ogni imprenditore lo sa, il tempo è prezioso, si comincia la mattina alle 6, si svegliano gli imprenditori alle 7. Esatto. Ma alle 7 hanno già fatto 1 milione di euro, direi, esatto. come insegnano da Wall Street, poi Michael 8... Douglas, che diceva sono le 7, io ho già fatto $1 milione. Poi dalle 8 si comincia a spendere. Adalberto, ma la domanda è questa: se c'è tutta questa crisi, e c'è questa crisi, c'è questo alto livello di disoccupazione, sicuramente ci sono delle risorse da mettere a frutto, ci sarà anche qualche giovane scoraggiato che non cerca più lavoro e quindi si perdono anche alcune possibilità, e voi invece volete ridare morale, però dove li trovate tutti questi aspiranti imprenditori per aiutarli a questo incubatore? Io, per farvi un esempio, vi parlo dei miei amici lì del paese in cui vivo, e ho numerosi amici che si sono dati da fare con cose simili a quella che stiamo organizzando noi, compreso H-Farm o altri incubatori d'azienda simili, si sono dati da fare, e in realtà diciamo, gli italiani sono sempre stati bravi a reinventarsi, e non bisogna pensare agli italiani solo quelli un po' più anzianotti, un po' più vecchi, ma anche ai giovani. Anzi, in realtà, quando si sono rimboccati le maniche e si sono dati da fare, sicuramente erano più giovani di adesso, e di conseguenza bisogna, io come ogni tanto dico quando mi chiedono, no, il messaggio di ottimismo che si può dare, no? E dico, basta pensare ai nostri nonni, nel mio caso, o genitori, se forse nel vostro caso, non lo so. Ci stai dando dei vecchi? Va bene, glissiamo, andiamo avanti. E bisogna pensare che i nostri nonni lavoravano 12 ore al giorno e non c'avevano la pagnotta da mangiare. Noi abbiamo un sacco più di possibilità rispetto a loro. Bravo, è vero. Non abbiamo un paese da ricostruire fisicamente. Manca un po' il senso della necessità e dell'urgenza, che forse andrebbe recuperato, perché il lavoro non soltanto deve essere una cosa bella, ma è una cosa anche necessaria che bisogna fare per mantenersi, insomma, in questa vita. E quindi manca un po' quel senso della necessità e dell'urgenza, però insomma si può. È una necessità più. Sì. In realtà non è più una necessità materiale, puramente diciamo. Sì. Sì, materiale, ma è comunque una necessità. Sta diventando anche una necessità materiale. Direi che sta di nuovo diventando anche molto materiale. Con la povertà che va diffondendosi. Ad Alberto, l'ultima cosa, anziché filosofeggiare, è colpa mia perché siamo noi che abbiamo aperto sto capitolo. Ad Alberto, quali sono i settori nei quali pensate, intravedete la luce in fondo al tunnel per il futuro dei vostri aspiranti imprenditori? Allora, nei nostri aspiranti imprenditori c'è sicuramente l'ambito informatico. Sì. E quindi le startup, diciamo, riguardanti applicazioni e software. E ce l'avete la stampante in 3D? La startup? La stampante in 3D ce l'avete? No, non ce l'abbiamo ancora. Mari, se ci fate un regalo, ce la regalate voi. Possiamo fare un crowdfunding per i ragazzi di Ritorno al Futuro. Potreste lanciarlo, vi aiutiamo a sostenerlo, perché la stampante in 3D sicuramente vi aiuterebbe. È una cosa molto interessante. Sì, per i prototipi, insomma, per tante cose. Assolutamente. Comunque, sostanzialmente vi occupate di informatica, non di vino. No, non solo. Adesso nella prima raccolta di idee, in realtà è venuto fuori di tutto. È venuto fuori dall'ambito agricolo all'ambito appunto informatico all'ambito di meccanica per strumentazioni elettroniche e per strumentazioni da laboratorio. In realtà è venuto fuori un po' di tutto, ecco. Chiaramente l'ambito informatico, specie per noi della nostra generazione, è... Siamo nati. È quello nuovo, è quello che tira adesso. È quello che forse è che la va parte di più. Interessante è applicare l'ambito informatico, del quale i giovani sono più ferrati, agli ambiti poi produttivi che già esistono. Quindi, se uno è in Veneto, non so, tipo il vino. Lo dico perché domani vengo al Vinitaly, quindi vengo a trovarvi. Ah, ecco, allora magari ci vediamo, perché probabilmente anche io sarò là. Ma di sicuro siete tutti lì, diciamo, per assaggiare il vino, ovviamente, non per ubriacarsi dalle 11 del mattino. No, ci mancherebbe. Grazie ad Alberto Canteri, rappresentante di Ritorno al Futuro, l'incubatore di impresa in provincia di Verona. Grazie, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie. Il nostro secondo inviato tra le buone notizie, inviati cercasi e l'hashtag su Twitter. Questa settimana la parola chiave è stata lavoro, la parola chiave prossima è volontariato, quindi cominciate a scriverci e a candidarvi per la prossima buona notizia, la sentiremo sabato prossimo. Il tema è il volontariato. Sentiamo Ciro che ci chiama da Napoli, un ascoltatore. Buongiorno. Buongiorno, sono l'ingegnere Ciro Feliciano, un collega di giurisdizione che ha chiamato prima della Michael. Della Michael. Grazie per avermi dato un po' di spazio. Ci mancherebbe. Vorrei correggere alcune imprecisioni che sono state date nell'ultimo intervento di un ascoltatore, penso. Sì. Ah, non quello della sua collega? No, non quelli della mia collega, assolutamente no. L'ascoltatore parlava di un ipotetico accordo che è stato rifiutato, meglio mandarne a casa 400 piuttosto che 100. Questo è assolutamente falso. Nel senso che l'azienda è partita con una procedura del 40%, un 40% calcolato matematicamente su ogni uno dei siti, cioè senza guardare alle attività, senza guardare le professionalità. Cioè, questo fa capire che l'azienda, facendo un taglio del genere, non ha in mente una reale riorganizzazione, ma semplicemente di tagliare il personale. Va bene, giusto precisare, sì. Questa cosa è partita dal fatto che la nostra azienda ha acquisito un'azienda giapponese e il governo giapponese, a differenza di quello italiano, ha preteso un'azienda giapponese in difficoltà economiche, su cui il Giappone aveva investito. Il governo giapponese ha preteso che la Micron mantenesse le attività e le professionalità nel posto per almeno 5 anni. E quindi la nostra azienda che cosa ha pensato bene di fare? Da 30.000 più 6.000, sempre 30.000 dovremmo essere il futuro. E quindi di cominciare a tagliare un po'... Lì dove era possibile, dove magari il governo italiano non aveva messo un impegno come quello, lei dice, e concludo io al posto suo, come aveva fatto il Giappone. Va bene, grazie Ciro. Poi naturalmente in queste vicende di risvolti ce ne sono tanti, si potrebbe stare ore e ore a parlare, però è giusto fissare qualche paletto. Credo che lunedì ci sia un incontro, non so se finale, ma insomma decisivo per quanto riguarda la Micron. Lunedì con il ministro? Credo con il governo, i rappresentanti dell'azienda, dei sindacati. Staremo a vedere. Adesso facciamo una piccola pausa, traffico, poi torniamo. Ancora uno spicchio di trasmissione, ancora interventi all'800-24-0024. Tra poco. Porta ancora nel mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma che cosa ha reso bella la vostra settimana? Chiamateci all'800 24 00 24, potete vincere biglietti e lo splendido catalogo della mostra di Klimt. Abbiamo un ascoltatore in linea al momento ed è Domenico da Caserta. Buongiorno Domenico. Buongiorno, buongiorno a voi e radioascoltatori di Radio 24. Anch'io sono un dipendente Micron che sta vivendo in questo momento il dramma di non sapere quale sarà il mio futuro. Lo stabilimento di quello in provincia di Arzano. Siete tutti in ascolto della radio, direi, perché ci state chiamando tutti uno ad uno, mi sembra straordinario. Guardi, siete 419, c'è tempo per... Ci dica. È molto sentito, come potrà immaginare. Beh, ci mancherebbe altro. È dal 21 gennaio che viviamo un dramma non solo personale, professionale, ma soprattutto familiare. Sì. Io a questo punto non ritornerò sulle cose già dette sinora, però sì, voglio fare più che altro una domanda al Premier Renzi. Visto che la manifattura in Italia sembra essere ormai da abbandonare, visto che le aziende si spostano verso zone in cui il costo della manodopera è più basso, i cervelli vengono lasciati andare via e sarebbe l'unica cosa a valore aggiunto che potrebbe ancora giustificare la presenza in Italia. Ma a questo punto qual è la mission del nostro paese? Cosa vogliamo fare del nostro paese? Vogliamo solo investire sul turismo, sulla ristorazione? Perché se così fosse, chiudiamo tutte le nostre università, i nostri poli di eccellenza, sì, e investiamo su istituti alberghieri, istituti professionali e andiamo avanti così. Ma chiaro, Domenico, illudere, grazie. Senta, posso farti una domanda? Certo. Ma c'è qualcuno di voi che invece ha deciso che potrebbe anche andare bene, andare a lavorare in California o a Manchester o a Monaco, o nessuno ha neanche preso in considerazione l'ipotesi di andare a lavorare all'estero? Guardi, allora, il problema è questo, non si tratta di non prendere in considerazione oppure no. Perché, no, ma era una curiosità, non è che... Sì, sì, allora, io il discorso è che anch'io sono uno tra quelli che si è posto l'interrogativo, cioè cosa fosse giusto a questo punto per me e la mia famiglia, sì, in un'ottica di un futuro più stabile, sicuro. Il problema è quindi magari saremo anche costretti a farlo. Cioè, però dice prima di valutare questa ipotesi, vogliono andare fino in fondo anche in questa trattativa. E hanno ragione. Costretti poi non è la stessa cosa di sceglierlo. Poi diciamo, diventa una scelta esatto individuale. Domenico, un'ultima cosa, poi ci salutiamo. È vero che lunedì c'è un incontro? Sì, importante. Allora, lunedì è previsto la chiusura della fase sindacale, quindi il termine di 75 giorni di legge, in cui dovrà essere ratificato o un accordo tra l'azienda e la direzione aziendale e le parti sindacali, oppure si dovrà firmare un verbale di manca d'accordo. Quindi occhi puntati, fari accesi lunedì su questo vertice, perché bisogna tenere alta l'attenzione su questo pezzo di industria italiana con tanti lavoratori d'eccellenza. Non che gli altri casi di crisi aziendale non meritino attenzione, abbiamo parlato anche degli altri, parliamo però anche del caso Micron. Grazie Domenico. Grazie a voi. Adesso grazie. Invece andiamo, ci rilassiamo un po', andiamo in Riviera Ligure per un appegli per uno strano caso che riguarda delle fioriere. You ugly. Come si fa lo spelling di Ugly, come ci ricorda questa canzone Gabardini? U-G-L-Y. U, no U. U si dice la U in inglese. Vabbè, mi chiedi lo spelling, ma se è uno spelling in italiano. Io direi Udine, Genova, Livorno, yogurt. Questa storia ha a che fare con la bruttezza di alcune fioriere che sono state poste di cemento. Io le ho viste in effetti nelle foto e sui video, sono davvero incredibilmente orrende. E insomma, un po' di decoro nelle città, il lungomare, c'è il turismo, ma insomma ci sono anche gli abitanti che ci vivono. È giusto preoccuparsi anche di questo. C'è un comitato di cittadini che si sta mobilitando a Pegli contro queste fioriere. Noi abbiamo convocato René Andreani, uno di loro. Buongiorno. Eccomi, buongiorno. Tra l'altro, io volevo raccontarvi un secondo che cos'era Pegli una volta, quando nei momenti magici del... Abbiamo 4 minuti 60. Prima di chiudere, però, quindi iniziamo dalle fioriere. Sì. A Pegli sono nati, tanto per ricordarvi, Alberto Lupo, l'attore, Orazio, perfetto. Bagnasco, il finanziere, Gino Paoli, Renzo Piano. Flavio Tra l'altro, Gattiero, Renzo Piano è con voi in questa battaglia. René. Ma tanti altri ancora. René, Renzo Piano. René. Era un paese bellissimo. Abbassate l'audio di René, regia. Devo dire una cosa, René non mi fa parlare. René, le dico una cosa, ascolti però. Renzo Piano è con voi in questa battaglia sulle fioriere, vero? Sì, Renzo Piano è con noi perché obiettivamente ha visto un giorno andando dall'amico Flavio Gaggiero, che è il dentista dei VIP, e ha visto questa oscenità e ha firmato subito anche lui. Ma chi le ha messe queste fioriere? Il comune? Chi le ha messe queste fioriere? René, scusi, facciamo come prima, abbassiamo l'audio in regia di René, perché se no non riusciamo a fare l'intervista. La domanda è questa, René: chi ha messo lì quelle fioriere? Descriviamole anche, esatto, per quanto sono brutte. Descriva queste fioriere. Allora, queste fioriere sono dei bunker, delle cose in cemento armato enorme, molto pericolose. Nel frattempo, quanto grandi, enorme, quanto sono grandi? E sono circa 2,5 metri x 2,5 metri, ma con un muro di proprio al lato della strada, e quindi hanno già, cioè, quasi in curva, io l'ho visto, sembra, cioè, si rischia di picchiarci, e hanno investito, perché nascondono le strisce, una signora. Quindi è una cosa veramente, oltre che obbrivosa sul profilo estetico, pericolosissima. E allora, appunto, siccome questo gruppo goliardico che da 60 anni fa scherzi e varie cose, io sono un po' negli ultimi 40-50 anni un po' il leader, ho pensato il 1° di aprile, come tutti gli anni ne facciamo degli scherzi, ci siamo messi elmetti, magliette, e abbiamo sventolato bandiera bianca, perché noi ogni anno facciamo degli scherzi che in genovese chiamiamo pitti, e ci siamo resi conto che dopo tanti anni il pitto, cioè lo scherzo più grosso, ce l'ha fatto il comune. E allora noi usciamo usciti da queste fioriere bunker sventolando bandiera bianca, ricordando che da in avanti noi abdichiamo e lasciamo che gli scherzi le faccia il comune. Cioè, questo bandiera bianca, una bandiera di resa, in questo senso. Esatto. Però questo non un grandissimo scherzo, noi non ci arrendiamo, ci posso nulla. Dire. Tanto è vero che abbiamo coinvolto anche Renzo Piano e cerchiamo prossimamente di vedere se con un nuovo progetto di sistemazione della piazza riusciamo a levare questo brobio. Va bene, costeranno un po', se sono di Renzo Piano, poi insomma magari Renzo Piano, fate un accordo gratuito. Renzo Piano, che è un concittadino, le dona gratuitamente. Grazie a René Andreani della compagnia dei tubi di Pegli per questa iniziativa che ci ha raccontato. Tra l'altro, ricordiamo, rilanciamo l'iniziativa di Renzo Piano, il rammendo delle periferie è importante. Ora non parliamo di Pegli, parliamo delle periferie delle città grandi, dove ci sono delle altre brutture vere, e voglio vedere cosa ne esce da questa iniziativa di Renzo Piano. Noi, fra l'altro, forse dalla settimana prossima avremo delle cartoline dalle periferie italiane, non dico di più di cosa si tratta, con un nostro inviato speciale. Vediamo se questa cosa riusciamo a farla. C'è Angela che ci ha chiamato con una buona notizia, anche se non riusciamo a mandarla in onda, però siccome ha chiamato, e la buona notizia era che le pubblicano un suo racconto, anche lei vince, vale. Oggi avevamo messo in palio biglietti, anche perché abbiamo avuto un sacco di telefonate di tutti i dipendenti della Micron e di tutti gli OGM, quindi giustamente abbiamo un po'. Gabardini, vuoi dire qualcosa? Però no, in 10 vorrei secondi. salutare tutti, buon sabato a tutti. Buon grazie. Sabato, giusto, ci vediamo domani. Tanto domani in studio abbiamo i 99 poste, straordinarie, alle 10, quindi seguiteci, perché oggi sono in concerto a Milano, domani li avremo. Grazie ad Andrea Piana, che ha scritto con noi il programma, così come Giorgio De Luca in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo domani, buona giornata. Ciao. Ad Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini. Ciao.